difficile, lo so, però M2O, musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Ricordo in quale orario, mi sentivo un po' osservato, ero un malato volontario. Eppure lui, che c'ha da guardare? Inventa storie per criticarmi, grandi menzogne sono le sue armi. Io non mi perdo con quel meschino, seguo il cammino di Gigi D'Agostino. Ci sarà sempre qualcuno nel momento più opportuno a soffrire perché esisti, a provare mali misti. Perché tu vivi il tuo mondo, perché sei un po' vagabondo. Nella mia testa per lui non c'è mai spazio, è proprio questo il suo più grande strazio. E ballo e penso, e piango e sento, e ballo e sento, e penso e piango. E ballo e sento e penso e piango e sento e penso e ballo e piango. E poi sono triste ma gioisco, custodisco ma impazzisco. Dolce amore, senti il cuore come batte, anche quando sei in ciabatte. Però è la dura. E ballo e sento e penso e piango, e sento e penso, e ballo e piango. E ballo e sento e penso e piango, e sento e penso e ballo e piango. E poi sono triste, ma gioisco, questo disco mi impazzisco. Amore senti, amore senti. È ora di finirla, questo giochino. Senti il cammino di Gigi D'Agostino. Oh, loro uomini amari. Durante il mio cammino ho imparato a ballare, a chiudere gli occhi e a non calcolare. Durante il mio cammino ho creato canzoni, splendidi sogni e dolci illusioni. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te, adesso sì li vivrò. Percorrendolo saprai davvero. Yeah. Gigi D'Agostino, fermati e ascolta. sei su M2O, alza il volume, c'è Gigi qui e scorre il fiume. Di musica e illusioni accende tutti i tuoi neuroni. Begging you to stay, 'cause I need to be with you. mattino, mica noccioline. Vita con musica, con Gigi, una storia infinita. Sei con Gigi D'Agostino. Gigi D'Agostino. Thank you.

attraverso la musica di Gigi D'Agostino, che cambia il tuo mondo. L'atmosfera in un attimo è diventata magica. Because you know I'm cool, cool for you anyway. I'm just a bad bitch if M.I.S. miss. I'ma keep talking this shit till you get this. I'ma bust up in the club with no guest list. Them other artists, I keep them all restless. I don't French kiss. Parti per un viaggio senza ritorno e troverai l'amore intorno. Solo con Gigi D'Agostino, la sua musica e il suo cammino. Education in a foreign land. Uncle Sam does the best he can. You're in the army now. Sabato t'aspetto, sono Gigi, l'ho già detto, mo la sigla fa sfumare perché devo respirare.